André, il terrestre. Dopo una seconda gravidanza non portata a termine, André rimase l'unico figlio di Isabella e Antoine. Isabella era professoressa di filologia romanza, mentre Antoine era un magistrato. Ambedue provenivano da famiglie facoltose, molto facoltose. In particolare Antoine discendeva direttamente da Jean de Villiers dell'Isle Adam, cavaliere medievale che divenne poi maresciallo di Francia, governatore di Parigi e pure cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro. Isabelle, Antoine e André vivevano in una grande residenza storica fuori Parigi. Una grande casa con un giardino pazzesco, un vero e proprio parco. Dove, con lo sconforto dei giardinieri, André organizzava partite di calcio con i suoi compagni di scuola, i mondiali troppo mondiali come li chiamava lui. Ogni tanto si trasferivano a Lione. Mentre l'estate la trascorrevano in un bel villino ad Arques, nella Ude. André si rivelò un bambino molto educato, con un carattere mite, ma risoluto. Piccolissimo passava ore a sfogliare i libri d'arte della biblioteca affascinato dalle figure, appena iniziò a leggere si appassionò ai fumetti, ne collezionò tantissimi. Gli piaceva strimpellare il clavicembalo del salone, gli piacevano le note alte e muoveva le dita velocemente, ma finché non iniziò a studiare musica era un tormento perché lui non si stancava mai, e rimbecilliva tutti con note a casaccio. Spesso veniva allontanato a forza dal clavicembalo. Era curioso, gli piaceva guardare il giardiniere come lavorava, anche stare in cucina e provare ad aiutare il cuoco a pulire la verdura o a fare il pane. A circa 8 anni divenne improvvisamente vegetariano, così di colpo. Io non mangio animali morti, strillò battendo i pugni sul tavolo. Prova a mangiarli vivi, rispose il padre. Ma l'ironia di Antoine non lo smossero. Non passò molto tempo che Isabelle e Antoine furono sorpresi da un'altra decisione di André. Isabelle diede una carezza sulla fronte del figlio spostandogli la frangia che si era allungata. Domani andiamo a tagliare i capelli, gli disse sorridendo. No. Virgola strillò Andrea allontanandosi dalla madre, i capelli non si tagliano. Ti coprono gli occhi, sembri un cagnolino, ridacchiò Isabelle. No, brontolò André, i capelli non si tagliano. I capelli sono sacri. Isabelle per qualche secondo fu paralizzata nel silenzio da un guazzabuglio confuso di imbarazzo, meraviglia, stupore, sorpresa, divertimento. Da dove esce questa storia? Gli chiese. E così e basta, rispose André. André era fortunato perché i genitori erano condiscendenti, pensavano che era meglio non ostacolare quelli che potevano sembrare capricci o stramberie. Perché erano convinti che con il tempo tutto sarebbe rientrato nella norma. Invece a queste novità si aggiunse un passatempo che davvero li sbalordì. Tanto che un giorno Isabelle ed una delle domestiche entrarono nella camera di André e rovistarono dappertutto, misero a soqquadro la camera in cerca di qualcosa che desse delle spiegazioni, ma non trovarono niente oltre quello che si può trovare nella camera di qualsiasi bambino della sua età, era tutto pacificamente ordinario, usuale, consueto, banale. Cosa sorprese così tanto Isabelle e Antoine? André creava in giardino delle curiose scenografie. Una sorta di altare oppure delle costruzioni simili alle piramidi egizie o le ziggurat caldee. Alla domanda cosa sono? La risposta era. Mi devo mettere in comunicazione con il popolo delle stelle. Isabelle e Antoine gli regalarono un cannocchiale. E gli indicarono anche dei libri che poteva trovare nella loro biblioteca che trattavano di astronomia, gliene comprarono degli altri. Insomma non lo lasciarono certo sprovvisto di mezzi. Lui approfittò di tutti quei consigli. Per un breve periodo si appassionò di documentari scientifici. Diede anche uno sguardo ai libri, ma li abbandonò poco dopo. Preferiva i libri e i film di fantascienza o fantasy. Al contrario, prese l'abitudine di osservare costantemente il cielo con il cannocchiale, in particolare gli piaceva soffermarsi sulla luna. Ma il culmine lo raggiunse un'estate ad Arques. Una sua amica tra i regali di compleanno aveva ricevuto anche una bambola molto bella, antica di porcellana, con i vestiti cuciti a mano, una vera opera d'arte. Quando André vide quella bambola chiese alla sua amica se voleva battezzarla. Lei rispose entusiasta che era una bella idea. Il pomeriggio seguente André riunì in giardino tutti gli amici che frequentava ad Arques, la proprietaria della bambola portò alcune scatole di biscotti e André avvolto, quasi sprofondato. Nelle lenzuole ricamate si inventò sacerdote che officiava il battesimo, imponendo le mani sulla fronte della bambola così preziosa con notevole immedesimazione. Trascorse un'adolescenza spensierata, consapevole di essere nato in una famiglia privilegiata, si godeva la vita, feste, molte frequentazioni, spesso in ambienti alternativi e artistici, più frequentemente negli scat. La musica fu il punto di rottura con il padre, che confidava di vederlo notaio come suo zio, avvocato come sua cugina, o magistrato come lui. Insomma, era convinto che avrebbe proseguito la tradizione di famiglia. Invece della famiglia, André spezzò tutti i sogni e tutte le tradizioni perché decise di approfondire le sue passioni: l'antropologia, la musica, i miti, le leggende, l'archeologia. Si iscrisse sì all'università, ma per seguire il piano di studi di etnomusicologia. André era riservato, ma non timido, anzi piuttosto libero, eccentrico, disinibito. Spesso amava indossare ampie gonne lunghe fino a metà polpaccio, accompagnate da stivali scuri, mai di pelle, ma sempre in materiali vegetali, perché gli animali non si toccano. In famiglia, sconcertati, si chiedevano dove le prendeva certe idee. In età più adulta si fidanzò con Silvia de Guenevoca, figlia di una coppia di architetti. Lei sì che aveva seguito le orme dei suoi genitori. Non a caso era un'arredatrice di interni molto quotata. André e Silvia si conoscevano sin da bambini, dai tempi della scuola. E non si erano mai del tutto persi di vista. Il fidanzamento con Silvia fece illudere la famiglia che André stava mettendo la testa a posto, in particolare la nonna, la duchessa Henriette, così la si doveva chiamare, sempre anche in famiglia, che considerava il nipote la rovina del casato. Ti pare che un uomo deve perdere tempo dietro ai capelli, brontolava spesso la duchessa. Già, perché i capelli di Andrea erano di un bel castano scuro, lunghissimi. Sempre raccolti in treccioline che lui stesso curava ad ogni lavaggio. I suoi amici gli chiedevano perché non si faceva definitivamente i dreadlock. Ma lui rispondeva che i dreadlock erano troppo convenzionali,